di accordo. Non hai agganciato la massa, ok? Hai agganciato dalla massa. Per poco non l'ho fatto anche all'uscita. Non l'ho fatto all'uscita per questione di comunità. Altrimenti li avrei sollevati da massa i variabili, ecco, e avrei collegato sulla pedina di accordo. Un braccio in particolare. Ma diminuisce ancora drasticamente i livelli filarmonici, che è un titolo. Prova. Un minuto. Un attimo. Diciamo che abbiamo più di più. Perché allora tu hai il massimo della polizia, perché la catena intermedia, dopo che hai 120 non è ancora. Alla stessa, questo è il 17.28. Ciao, aspetta che c'è qualcuno che ha chiesto il break, avanti. Buonasera a tutti, già vedo più lungo. Ciao. Ciao Gianni. Oppla, oppla. KK, allora, come sarà? Aspetta niente, vieni tu, Roberto. Sono 200. Sì, per ora sì. Bianco, per me avanti. Roberto, se ne è fuggito. E allora, già. Mi stasera sono andato per messaggeri e salve. E mi sono comprato l'ultimo dei nomadi. In vinile. Assassino farabuttola, quanto l'hai pagato? Ma l'ha lasciato 17 perché costava 22. Ma l'ha lasciato 17, però gli ho preso dischi anche a seconda mano perché è quello lì nuovo. Ma dice che a Natale ne aveva parecchie, ne aveva un bel, adesso ne ha pochine. C'è poca scelta, c'è Celentano, qualche cosa di vecchio, c'è qualche cosina. Però mi sono preso quello dei nomadi che era ancora sigillato e tutto. E mi ha detto, guarda, questo è nuovo, è l'ultimo che hanno fatto. Ma, aspetta, ma ne prendono altri, ne mettono altri? Mi ha detto di farci un salto ogni tanto, che ogni tanto ne prendono. Poi c'ha una serie, un elenco sul computer che mi ha detto può essere o non essere aggiornato, comunque io questi qui posso ordinarli perché forse li hanno, diciamo che qualcuno magari può mancare perché non è aggiornato oggi, però la maggior parte dice si trova. Ma tu hai parlato con lui, se la nuova produzione si sta ampliando? Sì, sì, ho parlato, ma ha detto che non ne sa nulla, che comunque in ogni caso dice che non è mai finita la vendita dei dischi, perché hanno sempre continuato ad andare. Diciamo che il CD ha superato il disco come può essere per la frequenza, che diciamo che internet ha fregato un po' il fatto di stare in frequenza. Però ha detto che sono sempre in vendita perché il continente dice che ha trovato un posto dove c'è un grandissimo mercato di 33 e di 45. Sì, sì, ma lo sapevo, questo lo sapevo. Ma io voglio capire, la produzione attuale del servizio, la produzione attuale, è una cosa che sta legando con, appunto, nuovi CD a richiesta dagli autori? Questo qui è una domanda a 13 milioni, perché questo non lo so, però so che per dire per... Smettere di farlo scendere. Si tratta, diciamo, per dire, i dischi li fanno sempre, perché io ho dischi nuovi, tipo, nuovi, oddio, non saranno quelli dell'80%, Vespa 50, Vasco Rossi Mix, c'è tutte quelle lì, capito? Le buscavo da DJ, praticamente c'erano dei DJ, c'era un negozio a Sassari che vendeva apparecchiature per DJ, strumentazioni per discoteche, tutta questa roba qua, tutta seconda mano. La faceva arrivare da fuori, le vendeva seconda mano, strumenti, e oltre a questo vendeva i dischi. Tra l'altro io ho trovato dischi molto recenti di Giannanini, di cose, tutti 45 giri, jukebox, quelli che hanno la copertina bianca. Quelli me ne li ho letti. Sì, ma quello che importa è che loro continuino a portare anche su, come si dice, le voci di nuovi artisti, perché se a me mi serve un CD di nuova concezione, piacerebbe averlo, ecco, questo è che mi interessa, per esempio CD di Mac, tipo l'altro rumor, se non si trova, anche qualcosa di promo, ma sempre che ci sia una vasta scelta. E c'è Vassemmo, Grand Funk, America, qualcosa, non mi ricordo se anche Beatles mi ha detto, comunque ci aveva qualche cosa. Anche Beatles? Mi sa di sì, che me l'ha detto, però non sono sicuro di Beatles, però mi ha detto anche siamo Grand Funk, gruppi tipo gli America, ti piacciono gli America? E qualche cosa da ascoltare, mi interesserebbe i Cucini, i Nomadi, poi i Pooh, poi tutti gli altri che hanno fatto, Beatles, Rolling Stone, Nannini, che mi piace da morire, secondo Venziano, un Berselinski, insomma tutti migliori, eh? No, a me praticamente stavo cercando musica discoteca anni 80, ero indirizzato su quello. Però mi ha detto che momentaneamente c'è una roba, ultima uscita, roba del genere. Poi ha detto, in questo elenco comunque qualcosa ce l'ho. C'avevo anche, non mi ricordo che canzone fosse, comunque è una canzone che sta negli anni 80. Ma c'è il 45 giri, se non lo voglio rialzare mi guardano, ma non mi ricordo adesso com'è. Ah, Patrick Hernandez, Bort Beer Live. Ecco, sì, quello è bellissimo. Io ce l'ho. È in 45 giri, però formato 33. Ma ce ne sono altri? Quello lì ce l'ha. Quello lì ce l'ha in elenco. Se ti sbrighi domani lo becchi. Lo becchi domani, perché ce l'ha nell'elenco, al computer. Non è che ce l'ha lì, no, lo deve ordinare, però odio ce l'ha. Quindi comunque per la linea di posto, fondi da fare che ho, come fai a cercare? No, se vado lì c'è mettere una fornitura, non ne potrà solo mezzo, no? Avanti che vuoi entrare? Oh, finito Moro. Lo senti finito Moro? Lio già. Un bisbiglio, sento, ma non capisco cosa dici. Pinucci, avanti, avanti. Pinucci, è lanciato piano. Poi chiarisco. Io chiarisco di vedere un po' più so. Ho 7 anni che non si intendono. Ho capito vero. Giovanni e Gianni, due sono. Pensate di potere fare una cosa. Ma comunque lui ha intenzione di andare avanti questo mercato già. Ha detto sì, che ogni tanto fa andare avanti. Ho detto guardi che stanno vendendo anche i piatti adesso di nuovo. Bisogna informarsi perché. Dice sì, ma c'è stato un periodo che si è bloccata la vendita, adesso ho visto che a Natale ne ho portato un bel po', ne avevo un bel po' a Natale, detto che ne sono rimasti di una decina. Allora hanno fatto il piatto con l'MP3 tutto integrato, poi sapete da me che queste cose, lui, dall'America alla Germania, dalla Germania all'Italia, c'è tutto. Andando, la cosa sta andando, saranno gli autori a proporvi e dopo, vedrai che ne scarano una marea di dischi, ce ne controlleremo, Vabbè, a me già mi piace più che il CD, figurati. Il CD è esattamente numerico, quindi non è quel suono, cioè non si preoccupare, non ha sulla letta, è molto spinta, anche se io ho delle macchine più toccate con altissima altissima precisione, conversione bit stream come Samus da 40 milioni di vecchie vite, però è inutile. È un piatto tecnico, cioè una bomba a mano, a trazione diretta. Se pensate che sia una bomba a mano non ci servirà altro. Infatti quando lo metto scoppia tutto qua. Con un silenzio allucinante così tra sapere quei finali, no, da non paragonare fortissimamente a certi cessi di, diciamo, avanti con un certo modo. Delicato il fumassone Savrina. E il massone Savrina è delicato, non questa regione. Un'altra volta, tu non devo prendere tante guasti, oramai non fa dritta da riusi, qui non c'è. A me si riusa da nella potenza di Agra. E pesce su Massone. A me si riusa. Già. Ma adesso, un attimo, questo discorso sul delicato, io la frequenza, delicato è quella cosa. Allora, la via di mezzo si cita, cioè. Più o meno. E poi avanti. Ciao, ciao. Ciao a tutti e due Gianni, anzi. Mi tacca lì. Adesso che fai bene, Pierpaolo, vedi? Ho salutato, buonasera a Gianni e Gianni. Vedi, buonasera, c'è anche Felicetto Moro, ma Felicetto Moro non lo sente, Felicetto, prova a chiamare Pierpaolo. Attenzione, binario 10. Esatto, ho detto proprio così, attenzione binario 10, ma allora lo senti? Ma poco. No, non posso intervenire, dai, non mi senti. Felicetto, come ti arrivo lì? Stanno bene l'ando, non sei. Questo si potrebbe di farla a panno, no? Ah, ecco, lo siamo visto. Ma la vede, qui da queste... di chi su caso uno. Cosa hai detto, già? Ah, ma la vede, qui da queste... di chi su caso uno. Ah, caso, vai. Di chi su... col verme. Ah, quello è... Giampagato, siamo di polizia, appunto. Dai, buon anche questo. A me. Come è... tira più distante. E via. Comunque sono contento già, che state riprendendo il mercato del disco nero. Assassino che si è comprato in Nomadi, già. Delinquente sarà tutto, ma te ne immagini? Anche io due giorni che non posso discutere di te, da naturalmente da una rivendita così, ma da chi già un giorno me ne conto qualcuno, capito? E via. Anche quelli che sapete andare, se vado a società io penso che qualcuno sia, almeno così via, perché un po'. Quello che stiamo fermando, vedete già là, è pronto a cena, però non chiamato. Ci sentiamo dopo, ciao Felicetto Moro, ti saluto, non vedo che non ti sento, quindi saluto, ciao Gianni, ciao Pierpaolo, ciao, ci sentiamo dopo, ok? E poi dovermi di San Destur, ho preso. Come? Dovermi di San Destur. Già, per anche quello. Ma guarda, uno dei libri che mi smette dei flexi di Tumasco è l'album Rumors. Rumors, non lo conosco sinceramente. C'erano Sex Pistols, quelle cose. Guarda, ce l'ho io, quelle che mi piace. Vabbè che non piace. In America li ascolto, mi piacciono molto. Poi aveva molto di cantautori, Venditti, c'aveva Zucchero, c'aveva un sacco di cantautori. Frena, cosa hai detto, Robert? Io ho detto su me che forse ce l'ho io con le lepide. Stiamo parlando degli anni 80, uscito nell'85 se non sbaglio, così. Ah, perfetto. Ma lo sai quanto l'ho cercato? Saluto in circolare. Sì, saluto, chi sei? Corrido. cavallo no, è in pista che corre da solo, si guarda dietro, non c'è nessuno, dice mamma mia quanto corro, però poi come ci sono gli altri cavalli, ti raggiungo. Mira Pirangelo, ho ben sentito dopo tanto, amico, ciao ciao Pirangelo. Ciao, ciao, allora ciao, guarda di qua, fino all'anno scorso ero il più forte di allievo, facevo da solo, poi sono messo in radio. Adesso sono il Maranfonte, non è così, vabbè. Diciamo di sì, tra i più furti, dai, tra i primi due, dai, in pole position. Quello sarebbe bello averlo, eh. Assassini, assassini, i miei lombrini. Allora quanti ne ho di rischi, forse ne ho visti qualcuno già, io ne ho centinaia di LP anche 45 giri, li ho presi in blocco da una stazione radio e ne avevo già tantissime anche io, quando c'avevamo la radio ne ho tirato fuori qua. Cioè, diciamo, la musica dagli anni 80, dagli anni 75, agli 85, ci si può dire c'ho quasi tutto, la roba principale. Da. Me l'ho immaginata. Vedi delle cose belline così, va bene, comunque già scenderò a metterti le scale per vedere cosa di nuovo, incoraggiamo questo settore qua e mandiamo avanti il conero e buttiamo nel cesso quei CD, va bene solo come CD home, va bene solo per il personale, tra un po' sparirà anche lì, vediamo questo di nostro caro bellissimo disco nero, mamma mia come suona bene. Appetito a tutti, ciao Felice Tavolo, ciao Finaglio, ci sentiamo, ciao Rossi. Ciao, ciao, ci sentiamo, tu sei nostalgico come sono io. A me piace molto il disco vinile. Io Robert, di quelle musiche lì c'ho settembre, poi la febbre sabato sera, Saturday Fever, e poi c'ho coso. Don't Let Me Be Misunderstood, poi credo ti posso dire, c'è quelle più belle, poi c'è tutti quanti, c'è tutti quanti quei cosi, quei twist, tutti mixati, che tabù che bello, quello lì. Allora, quello che hanno dato tu sono i buoni M, cioè l'LP me lo sono fatto l'anno scorso. Io ce l'avevo in cassetta, con l'LP lì me lo sono fatto, me lo sono cercato e me lo sono preso. E altro Wind and Fire, quelli che hanno fatto settembre, tutte le canzoni, le flow, un sacco di cosa, e ce li ho in CD così. Ma dubbi, non ero quello. Diciamo non è che ne hanno non ne abbia, io ho delle compilation, perché molti sono, la maggior parte sono dischi da radio, vinili da radio, dove ci sono ripetizioni, per dire, su un LP in una compilation la puoi trovare su un'altra compilation lo stesso titolo. Vabbè. Sì, avanti. L'ho segnata quella, mi telefoni che c'hai. Cosa hai detto? Non ho capito. Hai detto che c'ha l'LP. No, il CD ho detto. No, non bene, adesso, LP. Guarda l'LP. No, vabbè, qua si abbiamo sbagliato, io ho detto LP ce l'ho in LP. E cosa ce l'ho in CD? Vabbè, forse ha giocato, mi scusi, ora. Sì, già, io ho segnato. Burelli per bravo con la febbre, però sempre bastardo. Dai, che bella, dai, ogni tanto bisogna dirle queste cose, segnare nel libro nero. E allora. E comunque Roberto non lo sapevo che ne avevi così tanti, no io non ne ho così tanti, però quelli che ho grazie a Dio sono belli. Io c'ho anche il mitico piange il telefono. Sì, allora io ti dico Gianni, senza esagerazione, senza falsa modestia, cioè intorno ai 600, forse qualcuno di più, di 45 giri, di long plane, che poi la maggior parte sono compilation e avrò 300-350, in tutto ci avrò intorno ai, come titoli, più di 3.000 titoli. Ma lei tutti catalogati col titolo, eccetera, eccetera. Sì, il 99% è catalogato, io ho una rubrica dove tu ti interessa a questo gruppo, parliamo di gruppi, non ho fatto il discorso col titolo, per dire Moniem, vado a Moniem e mi dice LP numero 51, traccia numero 2, e vado di lì. E tu dove si fa, chissà che cosa? Un bel trasferirti un po' di canzone della discoteca in un CD, fatto un CD con tutte le migliori canzoni. Ho anche un MP3 andrebbe bene. Fare un bel MP3 di lusso. Senta, cosa ne dici? Sì, già, però sai cosa è il discorso, io mi stufo molto facilmente, molte volte mi metto a registrare, sai quante no, centinaia di cassette audio, c'erano nel nostro della radio, ma poi alla fine ti stufi, io a me non mi piace, cioè io so, voglio sentire cose nuove, cioè canzoni che non ho mai sentito, qualche volta ascoltarti, però io vedo quando mi faccio una compilation, me la metto, me ne stufo subito, me la ascolto due o tre volte e poi boh, basta, se la rapo, non mi interessa più. I dischi invece ogni tanto li ha, e ti posso dire io dei dischi che ho, molti, almeno il 30%, non li ho mai sentiti, molte volte non conosco l'autore, cioè conosco l'autore però non conosco il titolo della canzone, e poi cavolo questa ce l'avevo e non lo sapevo, ma canzoni famose, dico, di un sacco di cose, adesso quella è Boniem, me l'ho comprato perché lo conoscevo l'EP, dove c'è la più bella di tutti, non so se la conosci, ma è Beccaro, ogni tanto la tirano fuori, la fa vedere la televisione quando c'è Bonolis che è fissato con il Boniem, ogni tanto te la tira fuori, ed è una canzone spettacolare. C'è un ritornello, forse una delle più belle in assoluto, la discoteca. Sì, roba di Marcetti che ho parlato con quella canzone. Mamma mamma, vai becca, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Sì, poi che si sì, sta sempre, io te li posso elencare tutti i gruppi della disco music dall'albore che è iniziato diciamo con cosa, con la che si sta sempre, parliamo di gruppi, poi arrivare Boniem eccetera eccetera, ti dico tutto faccio la storia in mente, infatti molte volte quando ci ritroviamo con degli amici diciamo coetanei che vengono a casa mia, mamma mia c'è quello, fammelo sentire, e molte volte è il gusto di risentire, poi non parliamo di altri gruppi musicali perché io ho dei, più che altro musica di discoteca in minorale. Diciamo, a me interessano i gruppi, quelli che piacciono a me, diciamo, e ne ho tantissime, poi anche cose varie che qualcuno la maggior parte non riconosce. Io come gruppi adoravo gli America, in America come gruppo mi piaceva molto, ascoltavo un bel, quello lì, i Queen, poi ascoltavo, sì, anche i Pooh, i Nomadi, quelli italiani anche, però a me la musica discoteca è quella che mi attira di più perché mi ricorda determinate cose, determinati luoghi, quando andavo a ballare al Pebai, non so se tu hai conosciuto la discoteca Pebai. Sì, a Puglia, la prima discoteca sono andato è stato il Pebai, a cosa, a Sant'Orsola, ti posso dire chi c'era, dirigente di Comitè Miracoli, dopodiché la seconda discoteca a Sassari, quella Madonna di Sassari, il Serra Nera, non so se ci sono mai andato, sul Via Milano che adesso si chiama Milano 26. Sì, che sono andato un bel volte. Sì, ma il Pebai io ci frequentavo proprio, facevano entrare gente selezionata nel Pebai, non facevano entrare gente in sì. Era una villetta, me lo ricordo, una villa era. Sì, io lo so bene. E c'è qualcuno che stava parlando, avanti che vuole entrare. Stiamo parlando sopra quasi. Chi è che vuole entrare su 10? Aspetta, forse c'è Pinuccetto che sta chiamando. Attenzione, Buduso, se copi sacca, di avanti, con la buonasera. Poco fa l'ascoltavo meglio, dai, come non detto. Dai, riprendi già. E comunque così mi ricordano vecchi tempi, vecchie amicizie che adesso non vedo più. No, io sono un po' nostalgico, ogni tanto mi piace sentire e ricordare. Io. Chi è? Io. Natalino, allora che tu fai di danno, eh? No, ora se lo vedo. Che danno? Ho visto, sono con i cazzi. Sono dalla stanza da letto, diciamo così. No, sto scherzando, ho detto danno nel senso che hai parlato sotto di Gianni, vicino a Gianni, dai. Comunque c'è Gianni, c'è Pierpaolo e poi c'era poco fa da lontano da Buduso, però adesso non lo sento più, e Gianni l'altro che ha chiuso. Questi quelli lontani intanto non li sento manco io perché sto l'antenna in avaria. Veia. Ma da lì, ma c'è o ci si la puoi? Ah, ma è attivo. No, no, no, aspetta, da solo io non vado da nessuna parte. Come gli altri. Mi chiede da solo, non mi chiede. Io ci avevo Marco, guarda, duramente ci avevo tanti di quei compiti in prima elementare, io non lo so una roba. Mi stanno mettendo tanti di quei compiti a questa creatura, non lasciano il tempo manco, lo sai che in prima elementare ancora li pensi giocare, sono ancora bambini. Mettili qualche cosa, ma gli ha fatto fare una pagina di quello, una pagina dell'altro, una pagina con una parola che inizia con un fo, l'altra con do, l'altra con du, l'altra con vi, cazzo, un quaderno ha riempito. Se lo tocchi a bene, va. E poi fare il disegno vicino di quello che scriva, perché scriva farfalla, doveva fare una farfalla e colorarla pure, oltretutto. Cioè sono solo tutta la sera per fare i vari compiti. Stiamo parlando proprio di questo, mio cinico, come ha avuto, questi bambini non gli danno un po' di libertà. Io te lo posso dire perché ho esperienza personale, che ho la figlia piccolina, lo stesso come la tua, di 5 anni, e più ci sono i bambini della scuola a calcio, diciamo, dove ci sono io, e tu vedi che i pizzini stanno tutto il giorno a scuola, tutta la mattina a scuola, la sera tutti impegnati, arrivano all'allenamento, sembrano quando tu prendi una persona che la tieni chiusa in un carcere, correndo, saltando, cioè la liberazione per loro, e molte volte non riesci neanche a metterli in riga, in ordine, perché totalmente contenti di stare all'aria aperta, li stanno, cioè come ti dice, il fumo alla testa li fanno uscire a questi bambini. Secondo me pretendono troppo, insomma, io non dico di non farli fare le cose, però l'esagerazione è sempre storpiato, secondo me. E lui che si lamentava, papà, ma quanti ce ne metto di questi compiti, ma io non ce la faccio più, non ho dormito manco dopo pranzo, sono stanco. Allora ho detto, io Marconi, molla tutto che ce ne usciamo, l'ho fatto staccare un po', siamo andati a farci un giro, siamo andati alla messaggeria e salve, lui si è guardato questi dischi. Poi ci abbiamo fatto una passeggiatina e siamo ritornati a casa, ha continuato a fare i compiti. E ancora a vedere i compiti, perché se ci ha abbinato il camion mia moglie, mi ha detto, vai, rilassati un po' che glieli faccio finire io. Ehi, anche poesie a cui la memoria non ne mettono. Ma ancora no, ancora quello lì non ne hanno messo. Però, cavolo, questa qua l'italiano si sta mazzando proprio. No, non so, ci sono degli insegnanti che vogliamo prendere per il discorso di dire e concludere il programma, ma lasciamo perdere, al bambino lo devi far vivere felice, deve avere una vita felice, non uno stress, cazzo, stressare i bambini, infatti sono stressati, i bambini adesso sono tutti stressati. E infatti come si gira Marco, quando dici qualche cosa si gira a voce, si gira tutto incavolato, capito? E non era mai stato così, è stato sempre un momento tranquillo, cosa. Papà, mi fai dire, mi stai deconcentrando, maledetto. Lei è nostro, purtroppo, a me mi dispiace, io sono la piccola, diciamo lei lo fa molto volentieri, ma vedo la grande che l'ultimo anno in quinta elementare, cioè che l'altro giorno, l'altra notte, non riusciva a farsi i compiti sino a Natale, sino alle 10:30 di notte, stava piangendo, c'aveva gli occhi lucidi, ha detto, ma non ce la faccio, sono troppo stanca, voglio dormire, ha detto, no, no, li devi fare per allora gli ho dato la mano io, e gli posso dire, e l'ho aiutata io, se no non finiva fino alle luna di notte, perché c'era tanta di quella roba da creare, una ricerca, doveva mettersi a scrivere, e io l'aiutavo, leggevo il libro, scrivi qua, lei scriveva, perché se no guai, allora di notte sarebbe stata ancora, e stava piangendo con gli occhi lucidi, ma babbo, non ce la faccio più, sono troppo stanca. Beh, quando si riposano queste creature? Se si stancano a casa facendo i compiti, poi vanno a scuola, li fanno tenere a scuola. No, un attimo di tregua, io non è che voglio fare il coso, però il moralista, però secondo me esagerano con questi metodi che c'hanno adesso. Prima i compiti ci rimettevano, anche per le vacanze ci mettevano i compiti a piacere. Ci comprava il libro, mia madre, coloravamo, scrivevamo, tanto per non dimenticarci la roba. Io lo so, ma purtroppo, vabbè purtroppo non è, purtroppo, la bambina fa anche catechismo, in quinta elementare fa catechismo il martedì, lo fa dalle 4:30 alle 5:30, poi dalle 5:30 c'è l'allenamento fino alle 7:15, e poi si deve fare il coso, i compiti, molte volte perché non fa in tempo, arriva a stanca volta, proprio distrutta, cazzo, però purtroppo devi fare, io ti insegnante i balordi, se non lo fai ti mettono la notte. Vabbè. Lo so, è un metodo balordo, mi vedo troppo impegnati nella scuola. Secondo me i bambini hanno bisogno dei loro spazi, non dico che devono studiare, però hanno bisogno anche dei loro spazi, unire l'utile al dilettevole. Già lo so, ma poi la cosa più brutta di questi bambini che non fanno attività motoria, io l'anno scorso, adesso quest'anno dovevo iniziare, facevo delle lezioni a scuola per gli insegnanti, e con la cosa che faccio, quel tipo di lavoro che faccio io, diciamo, sport, parlavo di attività, attività sportiva, ma sono una massa di ignoranti, questi bambini non li fanno fare niente, li tengono rinchiusi in casa, io andiamo in palestra, io mettetevi a girare, non è vedi questi bambini tipo cavallini del circo, girando, cioè il circo che rimane stupito, dice ma forse abbiamo un bambino che fa fare le flessioni o cose del genere, cioè cose da, che non fanno, cioè, per quelli che la fanno, perché molti non ne hanno neanche possibilità di farne, perché tra l'insegnante non ne ha voglia, non ne fanno uscire neanche, li mette in punizione e dice usci, niente palestra, rimanete due giorni seduti in classe. Fa finta di punirti, invece per chi non mi vuole andare. Infatti a mia figlia quando è in punizione, tutti quanti, molti genitori della squadra, dove sono io, dico no, adesso non ti vado, ho detto l'allenamento lo devi mandare, anzi l'allenamento è utile. Togliene dalla televisione, io la prima cosa ho spenta la televisione tu una settimana senza TV, a vedere si chiama la musica. E a Marco basta che tu su PlayStation e computer. Poi vedrai che riesce a ottenere tutto. No, la PlayStation ce l'ha adesso, mille, la realtà natale, e buh, e c'hai l'orologio digitale, nel senso, più di 10 minuti non puoi fare, a un certo, anzi, è da 3 o 4 giorni che non la utilizzo, perché ci devo essere io e nei tempi che dico io, se no nulla, non ne voglio dire i bambini io con la PlayStation. E che li fa incavolare davvero? Marco a volte, ed è molto intelligente, riesce a fare questo di livelli, quando non riesce a fare un livello per dire che è difficile, dice papà dammi la mano, non ce la faccio questo bastardo, mi sta si incavola, proprio ho detto Marco, se ti sento così poi ti stacco tutto, perché il gioco deve essere il gioco, devo sentirti tranquillo, non sì papà non grido più. No, io preferisco, me leggero li do a usare, la piccolina neanche ne tocca, tra parecchio. No, preferisco con il computer, lei il computer ci va molto spesso, questi giochi interattivi dove ci sono i livelli, diciamo, di intelligenza, esattamente tu devi entrare con la logica a cercare di andare avanti. E infatti questo qua c'erano 9 livelli, i primi li ha fatti abbastanza bene, poi piano piano un po' di difficoltà, l'ultimo dopo tanti mesi è riuscito a farlo. Con la logica, non so come cavolo abbia fatto, però ci è riuscito a farlo. Quelli sono giochi interessanti, che stimoli l'intelligenza, ma se ti muovi a giocare PlayStation, al gioco FIFA, a una tazia, cosa è, che sei tutto il giorno attaccato con i giocatori dello stesso movimento, la stessa cosa, alla fine ti esce fumo la testa, cioè non sono giochi utili per il bambino, secondo me. No, Marco non è di quei giochi lì. Marco c'ha tutti i giochi dove devi combattere, dove devi entrare in certi labirinti, devi uscirne, eccetera, eccetera, devi combattere chi ti viene incontro, tutte queste cose. C'ha tutta la roba di Dragon, come si chiama quello brutto, ma quel pazzo brutto, come si chiama, Strike. Però non ne ha pochissime, tra l'altro quelli che c'ha sono di quelli usati, vecchi, presi al mercato delle pucci, diciamo. Però stiamo monopolizzando già, vediamo un pochettino di far intervenire anche gli altri. Riprendi per qua. Sì, adesso riprendami, e per il momento mi saluto perché vado a mangiare qualcosa, che ho lo stomaco, mi fa da fuori. Ci sentiamo fra un pochino, là. Mangio un po' di riso bianco, perché altro non posso mangiare. E a ciao per fare buona carica e buon tutto, non so se ci sarà, vi sarò quando ci sarete perché tra poco stacco anche io. E riprendi Natale. Meno male che figli ero io. Ebbene, non te lo vuoi adottare un figliolo, una femmina di Natale, su 18 anni. No, guarda nessuno, va bene da solo. Una ragazza di 18 anni, 20 anni, bella piena. No, che da voi mi tocca abusarmi da in coda. In coda, beh. O tu già non te la puoi adottare una figliola. A me mi bastano le due che ho. scherzando, no, io c'ho una famiglia che conosco che prendevano queste ragazze, quelle belorusse, se hai presente? Sì, sì. E c'era il figlio, c'aveva 16 anni, più o meno l'età di questa. E chi tu si deve dire, fate il padre, lascia perdere, ragazzi, se non fa danno. Vabbè, è normale, no? Una cosa naturale. E invece questa vincogna aveva preso questa Bielorussia, e aveva 14 anni. Beh, voleva stare sempre in giro, voleva girare, girare. Antonio, andiamo via, andiamo a girare, andiamo a girare. Prendeva la porta in giro, dice già, vedeva una cosa la voleva, vedeva l'altra la voleva, ci voleva lo stipendio appresso, pantaloni e questo e quell'altro, calze e roba intima, di tutto gli ha comprato. E dice, cavolo già, è stata una bella esperienza, perché quando parte siamo messi a piangere, cose perché siamo affezionati, però era una grande rottura lì. No, così è esagerato, no, sempre, certo, non li dà, non dico alla strada senza mania, però diciamo deve stare nei limiti. Tanto loro si accontentano un po', come sono gente, la maggior parte dei poverini, nel senso vivono, molti vivono in collegio, nel senso che non hanno mai visto genitori né niente, gli altri non prendono i bagni e fanno tutto il giorno. Difficilmente mai trovi gente che è benestante, però non devono approfittare, sennò guai. Purtroppo le approfittavo. Dice che un giorno andate al supermercato e comincia, Antonio compra questo, compra il vestito, non mi ricordo come si chiama, Natasha, mi pare. Compra il vestito Natasha, guarda com'è bello, guarda qua, guarda là, le calze, e questo per abbinarlo, le scarpe, tutto quanto l'ha fatto pigliare. Dice cacca, vediamo in goccia i cicunetti. Niente, vai, un coso, un mutuo delle domande. No, il brutto, vabbè, queste sono cose simpatiche, il brutto quando vedi delle famiglie arruinate che vengono queste tipe dei paesi dell'est che le trovano nei nati, cacchio, e molta gente se ne scappa con queste panni e le mangiano tutti i sudi. Poveracci, ci sono ragazze, non vai, credimi, perché io vado a consegnare a Platamone e lì c'è rifugio un peccatuno, al villaggio grigio. Vengono queste ragazze che sono madonnine a vederle, ben fatte di corpo, belle, ma belle veramente di viso, con gli occhi azzurri, alte, slanciate, certi pezzi di donna, guarda, che ti viene voglia di sbranarle. Eppure fanno questo cavolo di lavoro, che la degrada in una maniera pazzesca, anche se loro quando tornano là si comprano palazzi che sono lì si fanno. Sì, sì, vabbè, purtroppo là, c'è un bel di povertà da quelle parti là, loro qua quando arrivano qua a guadagnare 2 mila euro all'anno, 8 mila all'anno, al mese sono come 20 mila euro per noi in proporzione, per loro è uno stipendio impensabile, diciamo, per cui dice chi me lo fa fare, io mi sto un paio di anni qua, naturalmente quelle che vengono di spontanea volontà, poi ci sono quelle che vengono con i giri viziosi e quelle non ne parliamo, quelle sì che fanno veramente bene. Li costringono, li adescano praticamente dicendogli che danno un lavoro dignitoso e poi quando vengono qua li prendono il passaporto, li picchiano e magari se li violenteggia le prima e dopo le fanno fare la vita. Perché lo so, addirittura ci sono anche ragazzine in mezzo, 16-18 anni. Sì, adesso io c'avevo un amico intimo, lui si è messo con una di queste ragazze qua, l'ha conosciuta così, per sbaglio in un bar, si sono trovati, si sono frequentati, alla fine l'hanno minacciato, l'hanno detto nome e cognome, l'hanno telefonato, dimentica, l'ha trovato la traccia, è andato a ritrovare quella tipa e quella gli ha fatto vai, vai, con gli occhi gli ha fatto vai via, e c'erano questi tipi, dice, solo a vederli, dice al giorno, dice, non si è più avvicinato, perché l'hanno, dice, stai attento, sappiamo come ti chiami, hanno fatto nome e cognome, cosa fai, lasciala perdere, dimenticala, e quella lì si è vista, cazzo, butta, cioè quando è andata a vederla, era in un angolo, non basta, è andato appuntamento, e è andata con questi tipi qua, proprio l'hanno minacciato di brutto. E poi la maggior parte sono l'orfi, si fanno sposare, una volta sposati ti mollano. Interessante che abbiano la cittadinanza italiana e si ne ha futti di... Sì, quelle che non sono nel giro, infatti io quelle lì che non posso vedere, poverine quelle che hai detto tu, quelle che sono sottomesse, ma ci sono quelle che diciamo le chiamo le madri le badesse, loro, quelle fuori, diciamo il capobranco, quelle lì sono le più valorose di tutte, perché io conosco delle persone, non faccio nome qua, perché probabilmente lo conosci pure tu questa persona, e questo si è messo con una di queste, ma guarda un po', ha lasciato la moglie, e tutta una famiglia, ha vissuto una famiglia, per stare con questa è una bellissima, ma gliene sta mangiando pure le mutande, ogni mese non so quanti soldi ci porta presso fuori, questa è della, adesso mi sembra Repubblica Ceca se non sbaglio, un paese c'è una relazione del genere, adesso non voglio dirti fesserie, e questa gliene sta mangiando tutto quanto, e lui non se ne rende conto, è talmente fesso, è innamorato che non si rende conto che gliene sta spulciando pure le mutande. Che bello. Magari viene testato anche il conto. Ti sto dicendo già, io non ti posso fare il nome, ma se capita ci vediamo in persona ti dico chi è, perché in questo posto ci sei andato abbastanza, so che ci vai, perché non ti dico in particolare, dai. So che ci vai perché ci va un po' di gente, non solo tu. Chi capita in quel posto ci deve andare per forza, perché se capita in quella situazione deve andare, non stiamo parlando di night, stiamo parlando di un locale, di un bar. Questo qua sta con questa tipa qua, hanno avuto anche una figlia piccolina, questa ha già dei figli grandetti e ti sto dicendo è una situazione allucinante. E già ho capito chi è. Cosa fa barista? È lo proprietario, non è barista, è proprietario di bar. Ah, ma già ho capito chi è. È vicino a te l'estate. Hai detto tutto, noi entriamo a dire particolari, comunque hai detto tutto, dai. Cappagamo. Sì, ho capito. Lo so, è sempre lì. Ogni tanto ne viene qualche ex collega, cioè, mi cosa va? Ex collega, vabbè diciamo, chiamiamoli ex colleghe, perché adesso non c'entra più lei, non c'ha niente a che fare, più, però vengono delle ragazze di lì a dare una mano, e sono di queste dello stesso genere di lavoro originario di questa qui, e tu le devi vedere, poverino, lo stesso questo amico lì l'estate parlando, è venuto un tipo quest'estate, l'ha inquadrata subito la tipa, le ha detto non ti voglio più vedere. E guai, lei non abbassava lo sguardo quando lo vedeva con questo amico mio. Comunque, vabbè, quella persona lì è ambiziosa, io lo conosco, non adesso, da un po' di anni, è una ciambata, ha avuto una bella moglie, poi non l'ha mollata per questa, e ne ha avuto altri prima. Sì, no, sto dicendo, non lo sto difendendo a lui, però cacchio, sto dicendo, lì c'è passato anche il figlio del G, lui c'ha un figlio suo, sposato con la prima moglie, diciamo, questa non so neanche se sono sposati, forse convivono e basta. E ti posso dire che ci sono state delle storie allucinanti tra lui e il figlio, cioè a passare il figlio dopo sotto a questa. Io conosco benissimo tutta la famiglia, bene bene, proprio amici, per cui lasciamo perdere, cambiamo argomento. Io li conosco molto bene anche io. Cappa. Vabbè, e non sai cosa c'è, che sono belle ragazze. Tante volte ti infattano, se non ti sei regolare, ti infattano. Già lo so, ma lui e la moglie era una bella donna, mica era brutta, cioè era una bellissima donna. Questa è bella lo stesso, anche di più, molto più giovane, magari ci avrà 15 anni di meno, però cacchio, direi che è rovinato la famiglia. Lo so. Ma molta gente non se ne mette in questi problemi. Pensa solo a se stesso. Non pensa che c'ha figli, che c'ha. Dopo chi soffre sono sempre i figli queste cose. Chi ci piange sono sempre i figli. Che è avanti? Sono rientrato. Sì, è arrivato un po' come Rockshell. Viene fatto. Io non riesco a cogliere niente. Ma eri pizzicato da ieri più là. Ti ho sentito dalla voce che eri mezzo pizzicato. Si sente? E io. Ehi, verso mare, sono sulla cosa della pepe. Oh, scusate, attimo, signore. Guarda, vedi una supposta di tacchi pinita. No, la tangente fa un po' di bella supposta. Tanto dall'aereo bianco. Ascolta, ma trattato sto? No, si rauca e basta. Vabbè, rauco la voce. Ma dico, mi può portare a farlo? No, no. E allora 48, forse, il tizio. Capace, va bene. Beh, signore, un attimino di pausa, prego. Cattolino. Cane. Dimmelo. Avevo parlato sopra Pierpaolo. Ma Pierpaolo, che potere sta arrivando? Prova. 1, 2, 3, prova radio. Prova Pierpaolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avete la sua segnale, Roberto. No, perché ho parlato sopra, probabilmente come se no, sto dicendo, io adesso devo interrompere, dai, e vi saluto a tutti, buon proseguimento di conversazione, buon tutto per domani, ciao Gianni, ciao Pierpaolo, Natalino e tutti gli amici all'ascolto, ci sentiamo alle prossime, cuoretti da parte mia, ciao ciao. Ciao Robert, ciao, ci sentiamo, buonanotte. Avanti Pierpaolo. Ciao Roberto, buon cuoretti, o buon ricambio, ciao, ci sentiamo alle prossime. Ciao Roberto Cruz. Cazzo. Oh. Cazzo di tutti, ma no, che cazzo di senti che voce che c'ho, di bravi. Che voce mascola. La voce mascola è questa. Invece a me me ne fa sentire la gara. Che cosa? Ma io sto andando a mandigare, là, ci sentiamo dopo. Sì, vai a mangiare qualcosa. Mio modulare, ma sto facendo la guglia. Alla fruita. Ma boh, forse mi sto stufando. Magari è stasera che si giù. Stasera si ti sento un po' giù. Sì, giù. Però forse ti sono. Sì, boh. Non lo so. Secondo te questo di te come sta andando con la scuola? Sì, vanno bene con tutti quelli, o quasi. Io ho tanto mi la cosa. E io beh, a seguito l'attacco di internet 3 all'Alan 48, all'Alan 48. No, ma che ce l'hanno fatto in modo che non posso attaccare a due diversi, perché questo ho fatto lo spettore uno e lo spettore dall'altro, e ho già fatto le tappe a uno che all'altro non faccio altro che attaccare. Sì, ho capito che hai fatto lo spettore. Sì, ho fatto lo spettore, non posso attaccare a due diversi. E così, cioè, anche qua, mi viene detto, capito? E non lo so, prima mi hanno detto che è strappato, tu? No, già sta andando. Forse si alzo troppo il cursore, ma non sta facendo. E forte, da. Anche quello è forte, ma quanto si è comprato? A metà. E io sono a due, là. No, già mi sono ascoltato il culo. Si sente sempre il sottotitolo, quando sono lì, quando vai oltre la metà, e c'è chi ha strappato. No, questo già lo puoi alzare un po' di più. Invece il timer lo puoi alzare di meno perché è troppo forte. Secondo gli apparecchi io non lo puoi alzare. Ma tu cosa stai usando adesso? L'MP4? Sì, sempre il solito, con quello che usavo in macchina. E mangia qua, eh? Va bene, molto chiaro. È molto chiaro. Picca, però qui. Un po' piccato, eh? Ecco, un cavolo di qualcosa, perché... No, questo qua c'è il 5. Chi è? Dura, tu sei? Ebbene, Luca, mi senti? ce la portate, Luca. Domenico Guadal, la stazione d'Alfa, in direzione Olbia. Ok, ciao, volviamo, buonasera Giovanni, qua il primo. Consigliere Luca, Sassari, qui è Paolo Pella 1, Sassari, avanti in Lovia. Domenico, stazione Tarda, qua, direzione Olbia. Buonasera, ciao WR, anche a te, Luca, se senti. Ah, Domenico, sì. Tutto, mi manda laterale, vero? Beh, sì, Giovanni, sono, ci siamo sentiti a 635 con Fabio e gli altri, qualche volta. Venga, Giovanni, buonasera, ben sentito questa frequenza. Sì, ne siamo tutti battagliando qua. Capito. E via. Vediamo un po' se si sviluppa lui. Pierpa. Io ne ascolto, Domenico. Buonasera, Domenico, ben sentito. Come? Domenico. Domenico, ascoltate Pierpaolo. Luca, Pierpa. Non mi ascoltano più. Non ci avessi più. Sai, trate in galleria a posto, perché è la direzione di Olbia. Vabbè, da, mi sto guardando il 34. Quindi, Luca, che ci sentiamo dopo a canale che finisce. Sì, a KK. Ci ascoltiamo dopo, da. Sì, ok, da. A dopo. Ciao, ciao, già. Ciao, a dopo. Attento, Luca, Luca, se mi senti. Gaffa. Io. Ciao, io. L'ho attaccato diversamente. Adesso ho fatto un'altra cosa, là. Là. A te com'è? Grigio. Niente, adesso come girare, là. Prova a vedere, va. Peggio. E capire adesso. Dimmi. Vai adesso. 1, 3, 3. Cosa sta facendo? Peggio. Non posso farmi più niente. È attaccato diversamente anche la vicinanza. Guarda che manca di accesa, cioè. Gaffa. Ma non me ne ha mai dato il tecnologia per ora. Guarda che il capo lo tengo da toccare su qualche cosa del mercatone. Ecco, guardo, no? Mi sembra di no. Grazie. l'hanno sentito. Io pure da microfono. Se no, la farà tu. Figa. Già lo scrivo. Microfono normale qua, va bene. Ma non manco, non posso trattare di lui. Certo che sì. Ma la questa distanza mi sento bene. Va bene. Sento il rumore della stanza. Quel tac tac. Tac tac. Ma non ho provato il conto su questo. Già lo credo che si sente. Anche il rumore della situazione. No. Anche nello spazio, per dire. E io ce l'ho messo tutto possibile. Cosa? Ma si sentiva? Avanti! Non c'è un attimino che stiamo chiamando. Avanti, chi è? Chi è che vuole entrare? Avanti! Ho ricevuto un segnale. Più acuti, Cosa? Più acuti. Più acuto, no? Sì. Ma la casa che da più acuti. Invece quello là è più potente. A chi no, che è potente? Potente, ma ora là è tutto una bomba. Come adesso? Ammazza, lo devi attrappare. È così? E così ti prende pure la pulosa. È così? E un po' di meno. Dillo come era prima. E così è come era prima, mi. E così va bene. Avanti! Ma portante oscillante io! Chi è che mette la portante? Chi è? Giù. Ti senti giù? Va. E come ti si sente? E che c'è? Ho Gianni su. Gianni Ritti. No. Tu sei già che ti offro tutto. Esatto. Sente so, o te non sente? Non lo controllo, o lo stai se va tre kimbe. A chi è? E sente so? Aspetta che ti do un controllo. Santiago 9 e Radio Kimbe. Santiago 9 e Radio Kimbe. Aspetta lo pago, Vai sì, dai. Vai da Gai. Quanta. Fa che lo passaggio. E 1, 2, 3 si è fatto, vai da Como. Non perfetti. Dai, vai da capa. Vabbè Gianni. Vabbè San Pippo, scatto. E un coso ho preso, una ciabatta. Un coso, una sempre ho preso. Una lotturia. E me la stavo mangiando già. Cazzo, ieri sì, ieri stavo mangiando un po'. Se non mi ha dovuto con la mano da rimane, gli anni l'avevi ammazzato. C'è un coppo 8 metri, Alessandro. A me ho fatto con la canna a pesca. Sì, ya. Ma infatti vuole messo il coppo, sia la seppia che al coso, al calamario, non si è messo il coppo, perché se va a staccarsi se ne cade dentro il coppo e è fottito. E lo so, beh, quello che posso dire era grandissimo già, è un po' grande. Ti sei stati quelli fuori misura, quanti chili avrà pesato? Quanti chili avrà pesato? Sarà stato più di un chilo, dai. Ah, no, pensavo che era di quelli giganti che trovano nell'oceano. Ah, ci ha fatto uno di 20 kg, mi pare. Sì, siamo un cazzo nei dati. Siamo porcone. Il senteso, mi pare che c'ha porcona. E fuori da Novara, io. Siamo una ragazza, minigonna. Ah, vai porcona. Chi è solo, le 10? Aspetta. Le 21:57. Yeah, giusto, giusto, cava. Dammelo controllo, lo vago, come te lo scende? Ma si scende. Poi da Como? Ah sì, allora fammi passaggi perché stavo guardando alla percezione. Che facete? Non mi intendo, se. Sono 6-9. Oh, vai già, la brittella so. E l'anno 25 uscì là. Ah, c'è un cavolo, volevo dire. C'è per rovina. Beh, ho capito. No. Sì, ma quel locale che c'è lì, come è nato? Sì, sì, quello che c'è sotto a Volcavia all'inizio. È una botta. Ma vero che è un locale di chi? Ah, e ti parlo di... Se mi arriva un po' di un tremendo. Aspetta. Aspetta, io mi faccio embriaco qui, allora. Aspetta, io non faccio una cosa. Ma aspetta, quello cane che c'è, scendo lì al cavalcato ferrovia e gira a destra, c'è a sinistra, c'è a destra. Non devi girare, non rimane proprio sul cavalcavia. All'inizio proprio. Tu venendo praticamente dal cimitero, da San Paolo, da Viale San Paolo, vai dritto, senza girare da nessuna parte, e te lo trovi proprio sul marciapiede del cavalcavia. No, io ce l'ho, tu poi scendi, sotto a sinistra, giri, come da troppo, non lo credi che io. No, è quello nuovo che ti sto dicendo che hanno aperto già, sarà un annetto da. No. Guarda, facci caso. È proprio all'inizio del cavalcavia. Ti rimane sulla destra, scende da Viale San Paolo. Ce l'ho presente, già lo sa. Mi devo prendere un go, ma non vorrei più presente. Mi hanno detto buchi un locale di chi? Io volevo entrare una volta per vedere com'era, poi uno mi ha detto, ah, che di chi se non vedi? La bassa. È un locale di croce. Vero è per te? La bacata. Mancare dai. Qua siamo, via, grazie a te, leggerla. All'inizio, dai. Non sei chiaro qua. Insomma, non sai quanto locale più. Come ti si tocca, prima io andavo al polvo di Stelle, e lì era bellino, si mangiava il panino, si beveva la birretta e c'era musica, dal vero. Quello è un locale di para. Ma cosa, no, quello lì è tranquillo, un locale, va, io sono stato bene. Ma è un locale di para. la ripara. Non lo so. A me mi ha parlato un amico, conosceva il corpo, conosceva tutti, Luciano. Siamo entrati dentro. Questa. C'era un giorno c'era il Beato Angelico come coro, come diciamo complesso, e canta un bel bene la cantante, ma brava, è mutata le gatte aperte, no, non ho bisogno di legarle, no. Non ne ho bisogno, interessante è che non ti investirà Gabriele. Cosa per fare? Ok. Ti metto la portante quando fanno. La portante ok. Sì. E che per fare? Non ho capito cosa mi hai detto. Ho detto. No, la sigla. Se di adesso lo si mette tutto, vabbè, come essere che non te lo vuol far dire. Avanti, Natali. Natali! No, Natali va chiuso. È chiuso. Che è rimasto Cuca solo, Cuca. Io ci sono. Ah, è Antonio. Figa. I miei bracci erano di busa. Però adesso vado per il mio cammino. Adesso per chi sugli animali. Tu devi farmi vedere, no? Tappa tutti. Se ti chiede domani. Rosato. È un uomo mezzo umano già. Devo dire di accurarsi. Io ho portato Ma prova a parlare tu. Io? Non so se ce l'ha anche con me, boh. Però quando parlate voi due ve la metto. Ma chi è questo qua? Sette segnale, 9.50 qua. Quando può fare più? La sede della Polenta in Java. Ah, oh, ma che sì. Hai qualcuno che ha da fare, già, un piccolo di uno? Non ce l'ha con mai. Mi sa che ce l'ha con Gianni e con voi due, perché poco fa parlavo e come la metteva a me. Sì, già te l'ha messa. L'ha messa? Forse tu non hai capito niente. No, forse tu non hai compreso niente. Allora, è troppo forte, c'è ma bisogna. Grazie, ti fa. 9.50, tu lo passi però vibrato. Ok, appena. Allora, prima di lo posso. Tu modulo già. No, no. Niente, già. Dove fare un buraco? Dove... Questa è frequentissima. Non lo so. Non lo comprendo. Ah, ui. Ma io, beh, deve essere che non gli piace la faccia. Vuole fare incavolare la gente. Ma lascialo fare. Se ne fa più di più. Vabbè. Infatti. Stavamo dicendo di questi dischi già. Sono i dischi, io mi auguro. Sapete che... Sono entrato uno per la giornata, stato un break, c'è stato, avanti. E intanto non sento nessuno perché c'è un portante. Sulla pace. Non c'è problema. La traffico. 950. Ecco, passate. Già, sono vicino a voi, sono anche su dentro. Gianni. Buonasera a tutti, sono qua, vi sto ascoltando. Buona guerra. Ciao. Ciao Claudio. No. Non ce l'ho contro di armature, assolutamente. Capito? Però più o meno si sa chi è. Ma cosa cazzo sai già nei fili nidi ricattati? Vedi Claudio, lì a casa c'è gente che ti ha scoperto chi è. Va bene. Quindi, perché mi dici che è Rico Cattato? Ho già nei riferimenti a tutti i dì, che ho 8 antenne io e non ne tolgo piedi, è una settimana che vi sto seguendo. Continuate, buona guerra a tutti, arrivederci, ciao Gianni, a tutti i dì, ciao Pierpaolo, ciao Antonio, ciao a tutti, ciao. Ciao Claudio, c'è proprio la casa nei piedi. Secondo me da uno che senza testa cosa ne vuoi sapere chi? Sì, ci sono persone che bevono, si sbrondano, questo è il brondo da quando è nato. Bravo, hai sei parlato bene, ciao. Ciao, ci sentiamo, ciao. Allora, vediamo confine, avanti il mio cane, avanti Lessi. Lessi la portante. Il provocheggio, lo siete fatti bugie a tutti, tanto non so. Non so pochi chi si è fatto bugie. Guarda, non mi interessa, io non sono un passo, non da più io mi difendo qua. Ma chi soffa? Anche. Lo senti, guarda. Metti la portante, Lessi. Non si sa, questa gente guasta. La gente guasta, Claudio, non ragiona per niente. Sto parlando di un'altra frequenza, non ti posso rispondere, ciao. Ciao, buon proseguimento. Mi prendi già. Sto in ascolto. C'è gente che mi sta ascoltando e sta solo vedendo, guarda. Ciao. Sì. Riprendi. Mio cane. Avanti, Lessi, riprendi. Non fare così, guarda che è stata fuori. Avanti, Lessi, chiama, non ti chiama, c'è un mio antico. No, cioè, presuppongo che ti chiami Lessi, visto che lui intanto che è fuori, farà pipì dentro nella cuccia. Va bene, a me la portata, io la insegnare, dai, su, vai. Schiaccia. Aspetta, te la schiaccio io, Luca, così mi dici che sono un numero a terra. Era calato più duro. Sì. Che morto, grazie. Allora, lui perché non schiaccia, lui ha il senso dell'inferiorità. Ma tu ti immagini se te la metto io la portante qua, succede a Sassari? Cazzo, ti annuleo. E allora, basta, continuate. Che non vuoi aiutare? Sì, infatti, sto aiutando, perché sono sempre d'accordo, ma sento cose un po' allucinanti, attenzione. Allucinanti? Nella parte nostra? E la parte di un po' di gente, numero uno, numero due, numero tre, tre segnali, quello, quell'altro. Non mi richiede a me. Bravi. Continuate a parlare, sono qua io. No, quello l'ho detto io, l'ho detto io. Io ho detto solo che sono tre segnali, ho aiutato tu che Claudio, Franco e Nicola, non ho detto. Allora, tre segnali mi arrivano così, poi ci sei aggiunto un altro, non lo so, tutto qua. E come tu vedi i segnali, cioè tu sei il mio segnale, c'è il segnale di Franco, c'è il segnale di Gianni, c'è il segnale di Natalino. Ho detto io quello. Poi non lo so. A me no, sto solo ascoltando io, ciao. Ciao Claudio, comunque no. Non ti abbiamo menzionato, diciamo così, come prima persona, abbiamo solo detto che c'è anche la tua stazione, che ha una certa frequenza, ma non credo che tu sia una persona che fa di queste tasse. Per il poco che ti conosco mi sembra abbastanza chiaro su cui. Non lo so. fare, ma è quello lì. Quando è più importante lo dici, per come ti conosco. Perché non mi sono mai nascosto dietro il microfono, hai capito? Quando ti devo disturbare te lo dico, chiude l'aria, io vai a coccarti. Questo è il mio motto, perciò fate chiaro amici che a lunga, io sono sempre nascosto, quindi attenzione. Non svegliate i cani che stanno dormendo perché ho voglia di dormire, ma tanto, tanto, ho tanto sonno, perché mi hanno già telefonato dall'altro giorno e non ci sono solo io l'ascolto, un voglio come parlate, perché ce n'è un bel di gente che sta ascoltando. A buon tenitore poche parole. Buonanotte a tutti. Ciao Claudio, buonanotte, ma sostanzialmente io non ho paura di nessuno, questa è una premessa. Se tu vuoi mettere importante perché ti interessa molto importante, lo pure, ma non ti abbiamo accusato, se le fossero di essere all'infinito. Se fosse qualcuno che vuole affidarmi gli orecchi, io la affido, ci sono dei metodi incredibili. Ho detto che io ne faccio vendere tante in radio, ne vendo ma ne faccio vendere tante, quindi ripeto, ribadisco, ho buon intenzione, poche parole. Parlate, che mondo è mondo, le portanti sono molto difficili da cercare, ci vogliono apparecchiature per farlo, quindi evitate di fare nominativi o preferenze, diciamo preferenze, che forse è meglio. Preferenze? Boh, io non ho preferito mai nessuno, Claudio. Qui chi ha detto che la stazione Y l'ha detto puramente così, solitamente per... Quanto lo potevo girare, dicono. Se c'era una mezza intenzione di accusare, non possiamo accusare, ho sentito anch'io, assolutamente. Abbiamo detto che ci sono tante stazioni fuori, è lo stesso discorso che stai facendo tu, è difficile da trovare. L'abbiamo sentita anche adesso la portanza. Ho sentito già troppo io, non ne voglio sentire più. Io mi sono ritirato, ma lasciatemi stare santa pace. Io mi sto sempre ascoltando, tutti i giorni vi ascolto. Ti ringrazio. Abbiamo un altro indice di gradimento e questo mi fa veramente piacere, che siamo delle persone semplici e ben volute. Fa veramente piacere. Grazie Claudio, per l'ottimista. Questo è un complimento per i poveri cipi. Povero Lugani già, farà bravo. Io sono una persona brava e tranquilla. Ho sentito la portante Claudio, quindi non puoi essere tu. Non puoi essere tu. Senza niente. Dove se la metto io lascio il segno e corra e mi tira là e prendiamo il passo, non solo di passare tu, no, che sei un poveretto in parole molto tenere, senza offesa, ma non passa neanche il mio vicino di casa, immagino già di tu. Sì, io sono un poveretto, sì. Non so cosa dire Claudio, perché non so le parole giuste per rispondere. La fotti di energia, continua a parlare, ciao. Ok. Dottor U, da oggi chiamatemi stazione poveretto. Poveretto è un segno buono, poveretto nel senso che si basso di segnare. Non ti ho poveretto, attenzione. E uno che passa di segnale, non c'entra niente con il discorso che stavamo facendo. Non lo so, no. Non più fidato. Io se voglio aumentare il segnale, sinceramente, lo posso fare, perché ho gli enti, ho la capacità per farlo, 100 volte superiore alla tua, anche a qualcuno che ha appena molto anni, però non mi interessa fare il segnale. Combattere questi di attrito non serve a nulla, non stiamo parlando di potenze, di segnali di antenne, sto parlando di un mente cacca, che è infrequente, è diverso. Ma non ti fa...

un'estimabile persona come rianimatore, come uomo, come persona che fa bambini, come persona in gamba stupenda. Walter è uno dei veramente dei grandi radioamatori, e quello è un grande radioamatore, cui non lo so, Claudio, cosa tu intende, perché sai, non sottovalutare non serve. Io Walter l'ho sempre pensato tanto. No, è per non metterlo indietro, ecco. È parte dei grandi, però ce ne sono tanti altri, c'è Marco Scorpio, un ragazzo riuscito nel lavoro, riuscito in realtà, riuscito in tutto, riuscito come uno dei migliori allenatori di tutta Europa, quindi è molto grande. Non mi è stato sorridere veramente, perché ne conosco tantissimi che sono grandi. No Claudio, no. Quello che ha fatto così sotto casa sua, sarà qualcuno che ha voglia di forse di accusarti giustamente, ma c'entra nulla. Ce ne sono tanti, come stai dicendo, dei nostri grandi, che entrano in 27, l'ho sentito anche l'altra sera, va, per grande persona, eppure non so, non ne parla di questi fondamenti così. Io ho detto che l'avete riattivata tutti assieme. Se te ne prendi meriti è perché non senti il dovere di dirlo. Ho sempre tenuto, ho sempre fatto pulizia, ho sempre cercato di avere cos'è qui in radio. Forse ho sbagliato nel dirti o nel... Io sono un grande radioamatore perché sono un grande amante delle radio. Non sono un radioamatore come Walter e come Marco, capito? Non sono amante di content, non sono amante delle grandi cose. Sono amante delle radio e quindi sono un grande radioamatore. Di radio ne ho 8, con l'ultima arrivata, e perciò mi reputo un grande radioamatore. Capito? Mi piace fare radio in tutti i sensi, qua, là, a destra e a sinistra. Ho visto che qua la radio non si può fare, perché un radioamatore non significa che deve fare solo radio nelle bande amatoriali, significa fare radio, essere un grande amatore delle radio. Capito? Quindi io sono un grande radioamatore, perché sono amante delle radio e mi piace fare radio, in tutti i punti di vista. Ma siccome qua non si può fare, mi sono ritirato, va bene. Visto che le persone mettono sempre in mezzo cose che non devono mettere, allora divertitevi e fate quello che volete fare. Se riuscite a mandarlo avanti vi faccio sempre i miei migliori auguri. Quando Claudio Sparvieri non ci sarà più definitivamente, direte forse aveva ragione Claudio Sparvieri. Ok? Ciao Gian, e comportati bene che ti sto ascoltando e mi sembri il fratello di Falcone quando parlo. Quindi ti senti tutto sgrappato, corretto, corbuntico, stupidaggine in croce. Non c'entrava proprio niente, un po' come dirti che sei nano e pelato, sono stupidaggini, capito? Stupidaggini, vedi come sei scorretto, non ti ho parlato male, mi sono espresso come meglio crede per dirti quello che la pensa, e ti sei agganciato, tu... Ti dico che fai passaggi più corti, che ogni volta che ti sento che c'hai il microfono in mano, parli solo tu, va bene così. Guarda, ma nessuno ti ha invitato a esprimere un giudizio. Certe considerazioni ti sono perfette, tutto lì. Va bene, allora ti entra anche per te le stesse considerazioni. Ciao. Continua a star qui, illusico. Va bene, ciao ciao. Riprendi già. Vediamo un po', le più lunghe, le più. Posso fare una domanda già? Quindi tutto Claudio, sono qua. Come mai da un po' di tempo a questa parte, a quando ci sono io, sta entrando nel canale 10, mentre prima a parlarvi al 635? Ma guarda, sinceramente gli amici che sono al 635 rimangono di un'oretta, neanche. Poi ho conosciuto Natalino, perché... Abbiamo delle passioni comuni, Roberto Cristiani, Roberto, delle passioni comuni con me, mi sono avvicinato un po' a loro, all'epoca, perché là il rumore era troppo distante, è rumorosissima, dei problemi, non sapevamo che stava passando, se andasse nel posto, però siccome si mettono un sacco di persone, mi sono un po' soffermato, non è che l'ho fatto, perché tutto il sei andato, si è fermato, sono entrato che prendi così, e ti stai sbagliando, guarda Claudio, ti stai perfettamente sbagliando. Ti ho fatto una domanda, non iniziare a scendere nelle camere di mezzo, mi hai risposto, va bene così, non ci sono problemi. Una domanda per sapere pure in serio, no? Perché mi hai fatto questa domanda? Così, pubblica amministrazione, domanda che hanno fatto a me, io la sto facendo a te, va bene così? Che mi hanno fatto questa domanda? Che ti hanno fatto? La trovo così strana, è venuto qui. Perché già mi fecero una domanda del genere, no? Perché non scendi le 10? Quindi scusi, allo stesso modo sono riporto a te. Perché la mia è rumorosa. Sento che sei in banda, me l'ho abituato lì adesso, vabbè. Perché questo ha fatto il volume, però comunque rumorosa, Non è che ha cambiato niente. Va bene, alla fine stiamo facendo questo. Ciao Gianni, ti saluto, arrivederci a tutti quanti. Ciao, ciao, ciao, buonanotte, abbiamo fermato qualcuno. Gianni? Avanti il prezzo? Ciao Angelo, buonasera. Dice anche di gente, Gianni, Claudio. Ancora, vediamo un po' se c'è ancora, se ti ascolta. Claudio? Ah, benissimo. Gianni? Che altro c'è? Ecco, benissimo, avanti Angelo. Prima di scendere verso il coro. Sì, già. Ah, scappa, dove c'era il circolo di Renato. Esatto, bravo. Lì. Dove sono? Scappa, sì. Come? Sì, dove c'è il circolo, in quella zona lì. Sì, in quella zona lì. Scappa. Eh sì, E come te li intendi di due? Come te li intendi di due? Bene. Via. No, ti hanno già capito, ma ti devono sentirsi già spostato. Compreso. Per adesso ti sei giunto tu portato. Ma se vuoi ti fai fare, sapere, avanti Gianni, ci sei ancora? Sicuramente, non c'è nessun altro. È scomparso. Riprendela. E adesso arriviamo a casa, mandiamo su qui a lì. Vabbè, da qua non mi chiedo dove l'hai fatto. Siamo praticato in Cagliari, siamo partiti e adesso una città veloce e poi a lì. Una vita un po' di sorpresa, con il camionista, perché mangiate bene solo negli autogrill, poi è un casino, no? Caffa, e tu che lavoro fai? Tutti i quei caratteri TV. Tecnico elettronico, elettromeccanico, informatico pure. Capito? Anche noi già sbandigliamo le cervella. Magari è meno fisico il lavoro, però sempre comporta impegno. Sì. Sì, signor, se lei, con questo, per lo più comunque assiste a domicilio e poi faccio supporto informatico a un amico che insegna. E dove ce l'hai il laboratorio? Quasi nello stesso punto. Sta pagando. Con questo. E via di quello. È una cosa comune. Sì, sono scalinale, svincolando, diciamo, per l'alghero, adesso è presa, niente, capito? Non è presa niente, se non ho capito bene. Mi sono svincolando allo svinco di alghero, direzione stampa, non ho capito. Quindi l'uomo è un manettone, con tutte quante macchine, e quindi è motrice. Arre. Cambia roba robusta, non penso. Cambia roba robusta. Ma che sei parente a suo camionista qui, sei 9? Chi però? Con l'autotrasporti grosso, con Pisano. No, li conosco, però siamo amici. Ah, vabbè, siete amici di cosa, di come si dice? Amici di lavoro. Torino Pisa. Sì, Torino. Torino c'è di Franco Manca. Adesso mi pare che anche Ura stia facendo il trascorso. Ma solo il movimento terra a farlo, sì. Come? Che fa solo il movimento terra. Ah, ho capito. Sì, l'ho visto che ha fatto il trascorso, ho detto prima, per me, da lì. Questi la campo fa, anche lì c'è Ferrari. Anche lui stia parlando. E infatti. E via. Già ci vogliono già. Perché se sembra così però già se ne richiede. Tanto voi avete tutti di voi, no? Se non vi muovete voi succede un pasticcio, giusto? Quindi, in base a quello che fate, vedete, come stavo dicendo, il suo figlio mi prendette. K48 e io lo sento nel gruppo per favore tante e noi noi e Gian Antoni con la copertura chi è Gian Antoni? Sono rapiniti e adesso sono nel suo figlio Zodeo scusate chi l'ha fatto. Figurati, ma come sulla sua fui? Cioè no, suo padrino è Francesco, suo nipote. Boh, e quindi chi era? Ma è che come mi può caso? Può caso la può nominare da... Era passato un valido di metro, così che ha problema con il digitale. Scappa, e stanno la voce di due Sant'Anna Noa, isso? E lo so tanto di fatto, le faccio assistenza sul televisore, su tipo film, video, videocamera, proprio io le faccio io. Kappa. Preso. E non conosco nulla di me, da me, insomma, con la fine anno, quelle lui. Che macchina c'hai tu? Adesso una macchina coreana, gli inglesi. Oh. Quindi se lo chiede a lui che ti dice tutto. Per potenziare questa cosa, di cosa si deve fare? Ma per quale cosa? Il baracchino. Tu prendi un lineare degli avvertaggi, o se no c'è, guarda, qualcosa dell'RM Italia, per la CP, che hanno anche il trampificatore interno, ma prendi veramente due lineari. Quindi tira molto così? Ma guarda, 400 watt te li sputa fuori, eh. 400 te li sputa fuori, ha un fortissimo assorbimento, Però ti garantisco che ti fai sentire, con quella gestione ti fai sentire benone. Perché il mio è originale, c'ho un'antenna 2001, capito? Un'antenna? Un'antenna 2001 mi sembra che è. Sì, ce ne sono le antenne per i camion, per le auto, a voglia. Basta che su quei supporti 1000 watt, 1500, e almeno glielo puoi mettere, mi va. Kappa, però è originale il mio, capito? Oh. Non è importante bisogna avere di fronte che se devi distinguere lì che ci sia antenna e capo, se no si faranno. Kappa. Comunque del 58 fino a 1000 watt, insomma, no, 800 ce la fa. 300 watt è benissimo. La sessione è ultima che ce l'ha portata. Kappa. Tu che viaggi così tanto, magari se fai in continente, mi pare che RM Italia dovrebbe essere a Milano, non ho guardato bene. Chiedi, te lo compri direttamente dal rivenditore. Lui sta in un attimo, colleghi un bel cavo grosso per l'alimentazione, sia del positivo che quello del negativo, per attacchi lì, attacchi qui e l'ingresso e l'uscita è a posto. E in su dire, ragazzi. E già, lo volevo dire, la leader. A te li installeranno lì stesso, te li installeranno, capito? Fanno una corda scura e andrebbe. Kappa. Comprendi? Lui da comprendere anche. almeno non sei lì a voci, quando schiacci su quello che ti sentono, infine se vuoi sentire c'è il amplificatore interno, schiacci un bottoncino e senti bene anche l'altro. Ai tiri, ce ne sono parecchi di radioamatori. Qui? Qui ce ne sono, allora, uno, due, due ce ne sono qua. Poi vabbè, ci dico un'altra cosa, non è radioamatore, radioamatore ha un'altra funzione. Sì, di quello sì che c'è delle piccole macchine pure, hai. No, il CD è quello che Citizen Band, codificazione banda cittadina, ha un ristretto numero di canali e una sola frequenza. Praticamente spazia da circa 26 qualcosa all'estremo della 27. Quindi è molto ristretta la banda dove opera. Perché c'è uno che ce l'ha Clio rossa. Ah, sì, ma c'è tutto CP quelli. Che su mio guy. Bello. Anche. E poi si devono su un CP. Io sono un CP e ho avuto un cassetto. Il CP si sono ricattonato come un CP, no? Ma ti sento chiaro adesso. Oh. No, ma già c'è sempre chiaro, capito? Questo è un coso di un apprezzetto che al finalino all'uscita un giocattolino così c'è già, già si fa sentire per quello che ho detto io. K. Vedete che l'intento con te. Vai sempre bene e ti infanta. Metti andana dalla mia. Come? È una decisione di piandanna sono. Ah, i due c'è, qui, con tre e quattro. Per l'interno del treno però, andrà bene, mi dice a Parigi. Cioè, punto su Nitra, mi posso fare il finale fino a Francia. Tra Midland e Intec, prima avevo l'Intec, avevo. L'Intec è più spartano, sinceramente trovo Midland più preciso come apparecchio. Più chiaro è il Midland. Sì, io sono più ben costruito, una circolazione diversa, e una macchinetta più versatile. Poi ne ho un altro piccolino, Intec, lo stesso di quelli 40 canali, capito, solo così, che l'avevo prestato e me l'hanno tornato bruciato. Figa. Bruciato, se non capito il primo pezzo. L'avevo prestato e mi l'ha bruciato, compreso. Di una pentenne da una voce. E vabbè, sai. Un CD qualche volta, succede, là. Non condanniamo nessuno. Una distrazione, un attimino, e lo spaccia. Ehi, ehi. Dove siete? Come? Non dico di intendere, ma... Ti copri? Tu sei di Intraterra? Beh, sono prima di Disiusini. E aspetta che andiamo già a spiegare. Dovreste zona negativa o a FIA, mi intende? Ti chiusi la tua mia! Inteso, 8 o 9 come? Discesa del ponte, mi. Sì, ma come lo ti chiusi 8 o 9, come andrà bene? Ma come non si risponde le due, non mi intende? No, come si intende bene, come? Sì, che lo credo, il 9, abbiamo già... Se si hanno vestito noi stessi, con questo segnale. Appagato. E poi piace. E... Siamo fusi, questi vanno, là. Però con il giù, non c'è apposta, con il giù, telefono a stare stagiti in appello, forse una ditta italiana che oramai stava in dei piedi, poi giù. C'è una cosa a una. Tu compro, raggiungi, tu dà una fisica. No, per la GPC. No, ZG Italia, telefono ZG. Mi lascio di rimanere, devi vedere il numero dai giù. la centralina c'ha del telefono, per dare il numero e ti telefono già. Via Osanan Concorretto, qui c'è già la zona. K. Quindi uscire direttamente da mio universo Concorretto. Con questo. Poi se non dai due, mi dà risposta da 20 che mantengo, sei giù. E via dicendo là. E si fa che si intende da appena di un po' tempo. La lista di ultimi qua. Oh, e l'uomo lui comincia a pigliare più giù, più su l'aria. E mano a mano di vita già proprio. Delle sempre messe. Il finale dei misteri si travaglia del buco, per il consiglio di noi, si travaglia dello stato. Anda, rosa, dai, pesi, senza pezzi di K. Oramai no, che no. A finire. Solo il travaglio, sto buco. Ecco, grasa, attivaglio. Grasa, ma così, intervento pronto. Macchina di dentista, macchina taglia fluffi, 25 ore laser, televisione, videocicatore, antenna, impianto satellitare, tutto da buco la raggio del malato che me lo carico adesso. Ma ognuno del suo? Ma, e non ti credi che questa mesa, no? La si lampa dei fumi, mette i... Prende fatto mille macchinario, però è troppo cappaginare in giro. Oppure bisogna troppo gai. Ma no, veramente questo periodo è stato proprio critica, è critica. Non avete mai periodo con voi. Cappa. Compreso. Prima già disse che bisogna se più fai via una questa cosa, come che vuole una cosa meta? No, da pensiero. E lui stesso guasto, chi non fa più di uno massato un tiro. E quel massato pure deve fare questa via fino a sempre, non è che si deve fare. Massato deve fare questa via fino a sempre. La gente non sta sui vita già, non funzionava già due anni o tre anni. Come si non fa garantire che siamo in te? Sì, mi scusi, la cerca leggere male, non le dico più finte, che sono altri. Troppo potente, troppo grosso per capire che sono a casa, e fanno il tutto di tutto. Ma allora non è riuscito, è tipo X solo che legge. Ma non legge manco uno, non legge solo tipo X. Quindi sarà sporca la lente, cosa ti dà? Errore. E allora comprati un pulitore per lenti e te lo metti a posto. Un pulitore, guarda ci sono quei dischetti, tu dici che amministri da mettere te l'ovo su. Ah vai, la signora Prada già, un pulitore per lei, un CD, ah guarda che ha dei filetti attaccati, lo riconosci da quello, mi costi così. Niente, lo prendi, lo metti sopra il liquido e poi ti sarà andato lui. Ascoltando Lana. Ah, capitano, la figlia di Lana. Le operative hanno appunto stato. È trafficina, è trafficata meta, la richiama è trafficata meta. Che pubblicazione è guai? chiami sempre a pettinare Facebook. E quale è il numero di giorno? Ma, è confidente. Ah, questo bisogna andare. Togli l'altro mica sopra. Oh, Bologna, Milano, dai. Togli l'uomo. Ah, questo lo dica. Lui dice che con me lavoro tra poco tempo, ma siete farroncino proprio attività da consulente o spiegato? Stai che bene, lascia di lasciare di pubblica sul padrone. E stai bene, non ha l'andata la meta, però sta manco, che tranquillo. Ma poi, come stiamo andando via proprio con solo un esaluto con le Cagliari? E con chi tu? Con fare Vittorio Sette. Con Giacomo. Vittorio Sette. Vittorio. Come se le paga? E lo dice sempre. Tanto dice che voi inizi paga delle mette in fila. Ah, Vittorio tu con chi finito? Con esse con chi finito. Ma poi da esce, tu con nato. Se... Mi pare, ma io sono un vacuno tutto, fa sì. Ehi, raffa. Ehi, raffa. Ah, con il torete, con no. Già lo conosco. Ehi, ma il trapposto lo fa bene. Ehi, raffa, trapposto, raffa. Ah, ho capito. E poi c'è Franco che manda me, da Franco manca il manno. A voi, beh Giovanni, io arrivi da Pitta. Grazie della compagnia, tutto alle prossimine. Ciao ciao. Ciao, ci sentiamo. Saluta a Gian Antonio di Lider. Ciao. Ciao ciao. Ciao. Vuoi sapere se c'è qualcuno che parla con un po' che ci sta facendo prima a boomerang, a me ti va bene, va, e io voglio mangiarmi qua aspetta.